ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccomi qui, immancabile, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ma ogni volta è una conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Stavo leggendo un po' così perplessa che, sapete il mito, no, della puntualità svizzera? Manco quello c'è più, ormai traballa anche questo, perché pensate che il direttore del vero ad avere un sistema ferroviario puntuale ha deciso di caricare sui ferrovieri, sui macchinisti, i ritardi attraverso la loro retribuzione. Quindi, diciamo, decurtando un po' la retribuzione ogni volta che i treni arrivano in ritardo. I sindacati italiani subito hanno detto: questa è una follia. Però per dirvi, insomma, che non ci sono davvero più le mezze stagioni neanche per quanto riguarda la puntualità svizzera. Ma in programma, invece, in tutta la sua completezza, è qui per voi. Siamo fino alle 15 insieme e, come sempre, vi chiedo di raccontarmi qual è stata secondo voi la notizia della settimana, oppure semplicemente di ritornare con le vostre riflessioni, con le vostre opinioni sempre espresse con la massima libertà, sui fatti, tantissimi fatti, potete veramente attingere a piene mani. È così difficile, anzi, fare una selezione, quella che cerco di fare sempre quando mi approssimo a questo appuntamento con voi. E chi è il mio opinionista estemporaneo oggi, qui non ci sono più le mezze stagioni, è Edoardo Razzini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Edoardo che è psichiatra, psicoterapeuta, e mi ha portato questo libro appena pubblicato con Mondadori, che si intitola Fatto apposta per me. Quindi io me lo sono preso subito, dico: sarà fatto apposta per me questo libro. Ma il sottotitolo dice che poi va bene, in realtà è fatto apposta per tutti. Quindi, come scegliere la persona giusta, o almeno smettere di scegliere quella sbagliata. E soprattutto questa seconda parte, Edoardo, credo che si adatti. Io, dimmi se sbaglio, soprattutto alla gran parte delle donne. Certo, sì. È soprattutto rivolto a un target femminile, non perché noi uomini non sbagliamo, no? Però credo che voi donne ce l'avete un po' più nel sangue, la scelta masochista. Vero, scelta masochista, indole della Croce Rossina, e che altro possiamo dire, poca autostima. Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi, se una donna legge questo tuo libro pubblicato da Mondadori, imparerà, se non a fare la scelta giusta, almeno a non fare quella sbagliata, la coazione a ripetere, no? A prendersi sempre gli uomini sbagliati. Bravissima. Sì. Bravissima. Una specie di... Benissimo. Sì, dovrebbe essere una sorta di autoanalisi fatta attraverso il rispecchiamento della casistica tragicomica che viene riportata appunto all'interno del libro. Allora, Edoardo, prima di entrare nel vivo della trasmissione, che lo sai, no? Ti chiedo di commentare le notizie della settimana insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici. Sfruttiamolo questo libro brevemente, diamo due o tre consigli d'amore, insomma, per quanto riguarda come scegliere la persona giusta. Dov'è la persona giusta? Posso fare un discorso un pochino a latere, nel senso che vai a latere. Volevo prima di tutto dire come il titolo del libro è volutamente fuorviante, nel senso che Fatto apposta per me evoca un'idea di amore romantico idealizzato, l'altra metà della mela è lì, è come Platone diceva: siamo separati, ma poi dopo ci dobbiamo riunire. Ecco, io da subito invece dico che bisogna cercare delle mele intere. Dobbiamo essere delle mele intere e non bacate, possibilmente. Assolutamente, in relazione con altre mele intere, quindi bisogna essere devono mantenere una certa autonomia. Ma perché? Perché se noi idealizziamo l'amore, creiamo una situazione fusionale, non riusciamo a capire chi è l'altro, non riusciamo a vederlo, non riusciamo a capire come siamo noi rispetto all'altro. E come fare per evitare questa cosa? In qualche modo mi è venuto da rispolverare il mito di Ulisse e le sirene, no? Noi dobbiamo ascoltare le lusinghe dell'amore, dobbiamo lasciarci prendere, ma avere una sorta di ancoraggio, no? Come Ulisse che si è legato all'albero, dobbiamo riuscire a legarci forse a noi stessi, alla nostra autostima. Dietro una fune, quindi, quando andate alla ricerca del partner, Ma anche perché la scelta dell'altro, come dice un famoso psicanalista inglese, è la scelta di un estraneo che ci ricorda un papà, una mamma, dei fratelli, vero, eccetera, no? Caso, sì. Per sì. Cui noi immediatamente, quando vediamo una persona, quando la scegliamo, ovviamente rimettiamo in gioco tutte le nostre problematiche, tutte le nostre difficoltà, tutte le cose che ci hanno reso infelici, perché tutti noi siamo un po' infelici, abbiamo avuto delle infelicità, tranne il professor Odi Freddi, che simpaticamente che ha detto che lui ospite mio anche qui, lui ha detto che lui ha solo dei problemi concreti, non ha dei problemi spirituali. E allora, comunque, voglio dire, in qualche modo la coppia è la famiglia, mi verrebbe da dire con uno slogan, una malattia di cui è la sola cura. perché poi noi all'interno della situazione di coppia possiamo rivivere delle cose del nostro passato con i nostri figli, eccetera, andare a ritroso e andare a ritoccarli come nel film Ritorno al futuro e riuscire a rimodificare qualcosa di noi nel presente. Insomma, diciamo operazione complessa ma possibile, e ricordo appunto il libro fatto apposta per me di Edoardo Razzini. Ma ora stiamo per entrare appunto nel cuore della trasmissione, e c'è già un ascoltatore che ringrazio, e cominciano a chiamare senza che io abbia ricordato il numero, quindi questo significa l'attenzione anche al mio programma, ne sono felice. Comunque, in genere Radio 24, il numero ve lo ricordo, il numero verde facile 800 24 00 24, numero verde per chiamare gratuitamente qui a Non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. E a questo punto cosa ci può mancare? Certamente non può mancarci il nostro collegamento extraplanetario. Riflessioni da Marte. Eh sì, le mezze stagioni, come dicevo, non ci sono davvero più, inutile negarlo. Era l'Italia, almeno così raccontano qui su Marte, un paese di santi, oltre che di navigatori e di poeti, ma ora, al pari del bisonte europeo, i santi sono inesorabile estinzione. A pensarci bene, Rosanna Fratello aveva già anticipato, ve lo ricordate, questa inarrestabile tendenza, diversi anni fa, precorrendo i tempi. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Ora, anzi, si riconosce anche con scanzonato, orgoglioso compiacimento, no? Di non esserlo più un paese di santi. Sarà che il mondo, alla fine, è pieno di belle figliuole, anche se scarseggiano, di la verità, i bei figliuoli, non so se voi ne trovate in giro, ma del resto, negli uomini, si sa, si cercano ben altre qualità. Persino la Pravda, il leggendario quotidiano russo, esalta in questi giorni le doti del vero maschio e di chi sa usare, dice, alla grande il testosterone. Che direbbe tuttavia la stessa Pravda se, per esempio, la cancelliera tedesca Angela Merkel decidesse di usare alla grande gli estrogeni? La Pravda? In ogni caso, la Cassazione in Italia ha deciso. Palpare le colleghe sul posto di lavoro non è reato, se fatto senza ebbrezza libidinosa. E dunque, in questa diffusa atmosfera erotizzata, ma non libidinosa, sia chiaro, mano morta libera, go go a tutti i maschi lavoratori bisognosi di dimostrare che il testosterone vive e lotta per sé. Nulla di cui stupirsi, dunque, dopo tutto questo, se proprio in questi giorni un cowboy americano, un certo Robert Bark, non so se ne avete sentito parlare, che nella centralissima Times Square di New York ha l'abitudine di intrattenere i turisti facendosi fotografare, a pagamento naturalmente perché il business è business, vestito di soli stivali e cappello, mentre con la sua chitarra canta canzoni country. Dicevo, non c'è nulla da stupirsi se questo cowboy, pubblicamente nudo come mamma l'ha fatto, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York. Spiega, illustrando il suo programma politico, che intende portare trasparenza a tutti i livelli. Ma insomma, se lo scotto da pagare per avere onestà, trasparenza e buona amministrazione sono i gioielli di famiglia al vento, chissà che non convenga. Caro Edoardo, ma quello che io mi chiedo, no, a proposito di questo palpatore assolto, non libidinoso, secondo te come si fa a stabilire quando uno ti mette le mani da qualche parte addosso? Cioè, secondo te c'è un modo di guardarlo da qualche parte per capire se c'è la libidine in atto oppure la linguetta di fuori all'angolo, come Fantozzi, ti ricordi? Certo. Quel rigo di saliva, come si fa? Beh, credo che sia un discorso un po' folle di base. E in qualche modo, tra l'altro, adesso non volendo essere sgradevole per il gentil sesso, io sento molto spesso delle mie colleghe che hanno nostalgia verso i vecchi tempi in cui si passava e c'era qualcuno che ti fischiava dietro. Attualmente non succede più. E guarda caso, chi è che ti palpa? Un extracomunitario. In qualche modo credo che... In questo caso, ma non solo, in questo caso è un extracomunitario, ma insomma di precedenti, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, due anni ce ne sono stati vari, la palpatina fugace, quella troppo veloce per essere considerata davvero una molestia. Ma quello che mi chiedo è se poteva essere sufficiente uno sberlone, ecco. A lui, dici? Guarda, io leggevo in questa dichiarazione di alcune di queste povere colleghe, in particolare una, che era tanto tempo che andava avanti con queste mani lunghe, quindi evidentemente nulla riusciva a farlo ritornare sui suoi passi, a farlo insomma desistere da questa... Il fascino discreto della palpata. Senti, Edoardo, ma se le colleghe invece cominciassero a palpeggiare i colleghi qua e là, Che dici? Questo credo che metterebbe molto in crisi i colleghi che sarebbero molto preoccupati. Secondo me è mica tanto, ma comunque se le ascoltatrici e gli ascoltatori volessero anche intervenire su questo, perché una sentenza della Cassazione, una cosa seria, è la... presidente di Telefono Rosa Moscatelli ha detto che è una sentenza nauseante. Effettivamente, se ci pensate, significa mano via libera alla mano morta, ecco, nel senso che ognuno può, certo, cominciare a palpeggiare a destra, ma che, io non c'avevo mica la libidine in quel momento, non so che razza di sentenza, ma comunque cominciamo a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. C'è Alberto da Genova, ecco il primato della telefonata di oggi, è stato il primo Alberto. Ciao Alberto. Buongiorno, ciao. Mi fa molto piacere intervenire nella tua trasmissione, anche grazie, se forse il tema che vorrei trattare è più da zanzara di Cruciani. No, guarda, qui puoi trattare qualsiasi tema che sia in particolare legato ai fatti della settimana, ovviamente, certo, sono talmente tanti che puoi spaziare con imbarazzo della scelta, diciamo, Alberto. Prego. Sono stato combattuto perché prima quando mi hanno richiamato ho detto volevo parlare del caso Sponi da Dario, ma in realtà poi a ben pensarci secondo me la notizia della settimana è la vicenda che riguarda le dichiarazioni che ha fatto il presidente degli Stati Uniti, no? Sì, Obama. Sì. Ai poliziotti? Esattamente, perché credo che, come dire, abbia fatto un'affermazione che possa essere di conseguenze per gli anni a venire, visto considerato. Allora, scusa Alberto, perdonami, faccio una breve sintesi così chi ascolta capisce se non sapesse. Poi però, certo, promettimi che torni anche sul caso Berlusconi da Dario, visto che avevi scelto questo, e non glissare. Allora, sulla questione di Obama, della polizia, eccetera, è questa, che nei giorni scorsi un notissimo professore, docente universitario nero stava rientrando a casa propria, aveva perso le chiavi, ha cominciato a prendere a spallate la porta, è intervenuta la polizia, lo ha arrestato, lui ha detto un po', non sapete chi state stuzzicando, forse poteva evitarla questa cosa, ma comunque chiaramente è sembrato, in parte può essere condivisibile, un atto razzistico, perché quando lui ha detto no, questa è casa mia, vedete qua ci sono le mie cose, questi documenti, l'hanno comunque arrestato e portato via. Obama allora è intervenuto dicendo la polizia è stata stupida. Oggi vedevo che ritrattava un po', cioè non dovevo usare questo termine. Sì, dicevo appunto, secondo me denso di conseguenze proprio per il fatto che comunque per la prima volta negli Stati Uniti c'è un presidente nero, e immagino, ecco, questa, che non sarà la prima, l'ultima, ecco, dichiarazione che lui farà riguardo a questi temi, anche perché per la prima volta c'è la possibilità per una parte del paese di sentirsi così rappresentato e di avere un po' più di giustizia, un po' più di equità, quantomeno. Esattamente, anche se mi pare che poi da questo punto di vista Obama, quando tocca questi temi nei confronti dei neri, non lo ha fatto anche quando è andato in Africa, sproni comunque all'autodeterminazione, al fatto di cercare di risollevarsi anche da sé, no? Perché una delle cose che ha sottolineato è il fatto che molto spesso, a furia di sentirsi, come dire, sempre considerati cittadini di serie B o comunque vessati nella storia degli Stati Uniti d'America, si crea anche un vittimismo che poi è un po' fine a se stesso, no? Quindi secondo me è importante il fatto che abbia fatto questa affermazione, perché ha puntualizzato, c'è un presidente degli Stati Uniti che è un nero, quindi, come dire, questo è più vuol significare qualcosa. Esattamente. Sì. D'altra parte però, ecco, mi pare che nelle ultime settimane lui abbia toccato, diciamo, abbia fatto presente che non ci deve essere quel senso sempre di, no, di vittimismo, per cui qualcuno deve sempre risolvere i problemi nei confronti della minoranza nera. Deve esserci comunque un atteggiamento proattivo anche di... Sì, no, questo senza dubbio. Poi adesso il caso del docente nero è andato in questo modo, si dice se fosse stato un bianco non sarebbero intervenuti. Certo, vedere una persona che prende a spallato una porta di una villa per entrare, un pochino il sospetto fa avvenire. E invece adesso torna sul tuo argomento che avevi scelto in precedenza e dimmi un po' che cosa stavi pensando. Ma Alberto, io sono un po' colpito perché voglio dire, è antipatico andare a curiosare in casa delle persone, quindi quelle intercettazioni che sono uscite comunque sono, secondo me, da un certo punto di vista un po' eccessive, però mi ha colpito veramente molto la cappa dell'informazione che si è creata, per cui se uno, per dire, non legge Repubblica o compra l'Espresso, è difficile che in questi giorni si renda conto di quello che sta succedendo. Voglio dire, se questa vicenda avesse riguardato qualsiasi altra persona con una certa notorietà nel paese, avrebbe avuto una risonanza molto maggiore. Io credo che, per prescindere da come poi uno la pensi politicamente, questa è una vicenda che è stata un po' messa sotto sordina, e questo mi fa un po' pensare. Tutto lì. Grazie Alberto, qui stai dicendo se ne occupano Repubblica e L'Espresso e continuano ad andare avanti sulle rivelazioni che vengono man mano fuori sugli scandali sessuali legati appunto e coinvolgono il Presidente del Consiglio, mentre gli altri giornali cercano un po' insomma di evitare di toccare l'argomento. Alberto, ti ringrazio. Ciao, grazie. Anche per la gran bella voce, devo dire, proprio di bei figlioli e belle figliuole, bella voce. Abbiamo una bellissima figliuola che riceverà le vostre telefonate e coordina le altre, Anita Panizza, forse la più bella figliuola qui della redazione, insomma, sono sempre d'accordo. E poi bel figliuolo che fa eccezione anche lui, il nostro Giacomo Spunta alla parte tecnica, così intanto li ringrazio. E prima di passare alla viabilità e di passare poi agli altri ascoltatori, Edoardo Razzini, tu volevi commentare qualcosa? Volevo dire qualcosa relativamente appunto alla questione del professore di colore, no? Nel senso, un aneddoto mio, sì. Mi trovavo negli Stati Uniti dove vive mia sorella e a un certo punto mi hanno dato questa casa in Connecticut da utilizzare, e per una serie di sviste, praticamente, visto che c'è un tutto automatizzato, siamo riusciti a chiuderci fuori senza possibilità di entrare. La casa intelligente questa. Allora assolutamente io non parlavo quasi neanche una parola d'inglese, adesso ne parlo due. Ho farfugliato al telefono con i vicini eccetera qualcosa, è arrivato un poliziotto che non mi ha guardato assolutamente nessun documento, ha preso un coltello, no, ha forzato la porta e mi ha fatto entrare. Ecco, se fossi stato nero probabilmente non sarebbe successo. Questo sì, un bel aneddoto che effettivamente ci fa capire quanto probabilmente questo povero docente avesse ragione a imbestialirsi in quel modo, e Obama poi anche a fare la sua osservazione. E siamo sempre qui, le stagioni non ci sono più quelle mezze, ma Roberta Giordano è con voi e c'è come mio ospite oggi, lo chiamo l'opinionista estemporaneo, ogni volta ne scelgo uno diverso, donna o uomo che sia, lo psicoterapeuta, psichiatra Edoardo Razzini, che ha appena pubblicato per Mondadori, Fatto apposta per me, per scegliere possibilmente il partner giusto o insomma quantomeno non quello sbagliato. E stiamo commentando diverse notizie della settimana, ne ho in mente varie che potrebbero avere il taglio giusto da psichiatra, no? A me piace che l'ospite abbia il suo punto di vista su tutte le cose indifferentemente, però effettivamente questa settimana ce ne sono un po' di cose particolarmente adatte a una sua lettura. C'è Alberto dalla provincia di Frosinone, intanto, ascoltatore al numero verde 800 24 00 24. Alberto, un altro Alberto, quindi due Alberti, sì, una buongiorno. Volta sola. Buongiorno Alberto. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Grazie a te. Tu stai lavorando, allora, Alberto? Sì, non ho capito. Tu stai lavorando? In questo momento sono in viaggio, quindi sono fermo in autostrada con la coda verso Firenze. Quindi... Insomma, di sabato a quest'ora. Beh, meno male che così stai ascoltando almeno la radio. Sì, è una radio che ascolto sempre volentieri. Bene. Quindi, allora, veniamo al dunque. Veniamo dunque. Intanto ne approfittiamo, visto che abbiamo lo psichiatra e quindi ci può sempre dire il suo parere. Io quello che volevo dire in maniera molto tranquilla e molto, molto serena è che molte volte noi facciamo degli stereotipi oppure ci passiamo la testa. Cioè, sentivo prima parlare del professore, non so che cosa era, professore nero arrestato. Sì, negli Stati Uniti, perché prendeva spallate la porta che si era chiusa. Ecco. Sì. Già noi, dicendo che il presidente degli Stati Uniti è nero, già commettiamo secondo me un errore. Cioè, il presidente degli Stati Uniti è mulatto. Se è mulatto, se è nero, se è bianco, se è giallo, se è verde. Come lo stesso, l'arrestato non era nero, è un uomo che è stato arrestato. Nel momento in cui noi andiamo a confermare queste tesi, a spingerci sempre, siamo noi a dare del diverso già dicendo che è nero. Sulle palpazioni, le palpitazioni o le palpatine? Le palpatine, diciamo, sì. Sulle palpatine, sul fatto dell'uomo, donna, testosterone. Anche lì, io sono una persona molto giocosa, che mi diverto, che scherzo, che sempre nel limite del rispetto della persona. E trovo che comunque sia le donne, sia gli uomini, è uno scherzo, diciamo, lo chiamo sessuale, ma non è questo proprio. Quindi tu Alberto tocchi d'abitudine il culetto delle colleghe? Io scherzo il seno, e gioco così, in maniera tranquilla e beata, e questo vedo che fa piacere, mi fa piacere, quindi è un atteggiamento che io ho in maniera molto molto tranquilla, gioco. E che la cosa non ha fatto mai dispiacere. Quindi quando lo stesso anche l'esternazione del presidente, ma ognuno fa quello che vuole, ognuno dice quello, non ho capito perché, oddio, per quale motivo avere delle regole sempre rispetto nel limite del rispetto, cioè, Alberto... perché bisogna sempre indicare e guardare sempre il sacco dell'altro. No, allora, ma Alberto, questo... guardiamo il sacco tuo, per esempio. Ecco, se tu toccassi una collega, una donna che non gradisce, certamente schiaffo, quando uno la denuncia, o tu ti fermi prima? Assolutamente, ma certo che io non parlo di toccare nel senso di avere veramente testosterone al mio mille, parlo di scherzare con battute, ma molto molto amichevole e molto amicali, insomma, quindi niente di libidinoso, diciamo, assolutamente no, perché là già si va in un altro senso. Ma non credo che esistano persone, non credo che esistano persone che tocchino con quel, non esistono non esistono uomini che toccano con quell'intento, sono persone che hanno altri problemi, quindi io le classifico in un'altra sfera. Quindi, chiuso anche questo argomento, preferirei che si parlasse del libro che credo che l'abbia scritto il professore, proprio del fatto dell'amore, della solitudine, di quello che è effettivamente l'innamoramento e l'amore, di quello che vuol dire innamorarsi, di quello che, di cui noi abbiamo bisogno, non quello ha detto quello ha detto quell'altro, l'esternazione. No, Alberto, alla no, fine non ci interessa. No, adesso ti non lo dico questo. Poi come trasmissione, assolutamente, lo dico per quelli che ascoltano e per quelli che molte volte guardano sempre, danno sempre una morale che molte volte è ingiusta e poi si fa anche peggio. Quindi sopportiamoci meglio, sorridiamo meglio, facciamo un sorriso sul presidente nero, ma chiamiamolo presidente, perché se noi già diciamo presidente nero... Ma questa può essere una lettura interessante, Alberto. Io ti ringrazio e mi piace. Io ringrazio voi, ringrazio della compagnia, un saluto al professore, un grazie. Saluto a lei e alla bellissima signora figliola. È arrivato per Anita e subito quando si parla di belle figliole c'è una certa sensibilità, ma ha sentito Anita. E ringrazio Alberto, adesso sentiamo anche le altre ascoltatrici e ascoltatori, insomma, cosa ne pensano anche di questa Palpatina, che alla fine si può sopportare perché non libidinosa. Sempre io mi chiedo se sia il criterio sia la linguetta fuori o no, o il rivolo, insomma, di saliva, poi ognuno interpreterà. In ogni caso, volevo spiegare ad Alberto che non possiamo parlare in specifico del libro di Edoardo Razzini, perché lo sapete, la mia formula è quella di invitare un ospite che abbia scritto un libro, lo faccio presentare brevemente in 3 minuti, ma poi la mia formula è quella di commentare insieme, tutti insieme, le notizie della settimana, avere questo spazio rilassato, tranquillo, per riuscire di nuovo a far ricircolare i pensieri, le opinioni sulle cose che succedono. 800 24 00 24 c'è Gianpietro da Bologna. Sì, pronto? Pronto Gianpietro. Buongiorno. Buongiorno a te. Niente, io sono intervenuto perché su queste questioni, diciamo, che magari vengono affrontate magari in una certa maniera, con una certta leggerezza, però riguardano comunque la violenza più in generale, cioè nel senso comunque l'intrusione nella sfera individuale di un'altra persona. Per cui io... La mia esperienza è che anche di fronte a situazioni, cioè violenza anche all'interno della famiglia, ho vissuto anche rapporti anche tra mio padre e mia madre, dove c'era anche la violenza fisica, anche certe volte anche su noi come figli. Beh, non è così però, rara, ecco, anche in Italia. Cioè, come dire, lo scoppolotto o altre cose un po' più pesanti, però al di là di questo, cioè, anche diciamo la palpata può essere vista sì come una violenza, come anche un gioco, come interveniva anche, diciamo, chi mi ha preceduto. L'altro ascoltatore. Certo che se una donna mostra di non gradire affatto, certo, mi sembra... Però anzi, ecco, io volevo dare un altro aspetto di questa reazione, perché io ho tendenze omosessuali. Nella mia azienda... Scusa, stanno... non ho capito, Gianpiero. Tu hai tendenze omosessuali. Ma non si può dire che sei... Orientamento sessuale omosessuale. Sempre, senza per tendenze. Cui nella mia azienda, che cioè, mi conoscono per questi orientamenti, ho anche, diciamo, una... così. Sono anche così una funzione pubblica nella mia azienda, è un'azienda grossa, cioè di centinaia di lavoratori, di dipendenti, per cui mi trovo certe volte anche lì soggetto a un po' derisione, battute, eccetera, eccetera. Comunque se la stupidità, sai che è veramente molto diffusa. Del maschilismo, nel senso... È come i diamanti, è per sempre la stupidità. Sì, nell'ambito del maschilismo, che si mette certe cose, cioè si ragiona con diciamo, a livello così, con qualcosa davanti che non è il cervello, ecco. Diciamo che su queste basi praticamente io certe volte reagisco anche in maniera bonaria, non so se ho la lingua nell'angolo della bocca, però che toccando il culo degli uomini. Ah, bene, questo mi sembra un contrappasso mica male. Eh? E quindi, ecco, su queste basi, praticamente, naturalmente lo faccio con chi ho confidenza. Certo. È un gioco, cioè, c'è sempre poi l'aspetto anche, c'è retroscena sessuale un po' in tutte le cose. Però poi dopo, diciamo, questi lo mette in difficoltà anche una certa virilità, no? C'è una certa idea della virilità, perché poi dopo sempre questo è un modo di mischiare magari un po' le carte, che magari fa capire qualcosa in più, fa anche riflettere. Gian Pietro, hanno dei bei posteriori i tuoi colleghi? Alcuni sì, alcuni vale la pena, sì. No, beh, diciamo che, ecco, non è che tocco il culo di tutti. Giusto, quelli che no, sono, dicevo, valgono, il fatto è che, a parte le battute, che poi dopo, quando ci sono, passano le impiegate, senti i commenti di questi che poi magari, quando magari subiscono la mia palpatina, magari reagiscono come dire: cosa fai, cosa stai facendo? Come, però loro permetti? Magari si sentono in diritto di farlo con le donne, in quanto sono le mie donne, quindi va bene. Quindi c'è sempre un ragionamento sul ruolo sessuale che uno ha, poi vediamo anche i fatti anche criminosi che ci sono, anche riempiono un po' le notizie oggi, su quando l'uomo, in un certo senso, in confronto alla donna, quando lo considera un po' più oggetto, magari si permette di picchiare o arrivare a Gian Pietro, ma non solo, scusa, più estreme come anche l'omicidio. Ecco, perché scusa se ti interrompo, ma allora mi colleghi direttamente, sai che io vado continuamente per l'associazione di idee, a notizie di questi giorni, ma in realtà di questi giorni sono di sempre, ne succedono almeno 3 alla settimana, secondo il rapporto Eures, di fidanzati, ex fidanzati che uccidono fidanzate, ex fidanzate, mogli, ex mogli, continuamente. Anche solo questa settimana mi pare 3 casi. È veramente un femminicidio che avviene in modo così costante, strisciante, silenzioso. E sembra come un fatto fisiologico. Perché non si affronta questo argomento? Ma io, no? Poi penso il che fatto, comunque scusa Gian Pietro, ma il fatto della palpatina ritenerla legittima fino a questa, all'estremo che dicevamo, c'è un filo rosso conduttore in realtà, perché comunque è una mentalità, un modo di intendere le donne come degli oggetti e delle cose proprie. Certe volte anche le donne sono anche vittime, perché poi anche loro si identificano con un certo ruolo dell'uomo e della donna, per cui anche quando un uomo esce da un certo schema si trovano spiazzate anche loro, cioè. Beh, ma è educazione reciproca, lo spiazzarsi, sì, non è che positivamente, reciprocamente, insomma. Poi non dopo che le vittime ruoli, sono 7 volte complici. Ma non sono sempre così convinta. Comunque, insomma, certo, le donne devono cercare di essere sempre più consapevoli di se stesse. Certe volte si ripete uno schema che poi fa parte anche della nostra società. Adesso non voglio mettere sullo sociologico, ma come diceva qualcuno, anche un vostro, insomma, spettatore, ascoltatore, che ascolta la vostra trasmissione, interventi precedenti, anche quando il nostro insomma, Presidente del Consiglio, anche lì, al di là delle sue avventure presunte, sessuali, eccetera, eccetera, rimane un concetto dove anche lì un intervento pubblico, anche con la marcia Gaglia, presenta la presidentessa della Confindustria, Presidente, così fa delle battute, no? Che sono prettamente tipo: io sono l'uomo, tu sei la donna, cioè ricarica poi certi schemi dove purtroppo sì, il filo conduttore non ci si tratta, cioè, alla pari, ecco, in questo senso. Gian Pietro, ti ringrazio moltissimo anche perché è stato un contributo appunto particolarmente originale, ce ne fossero anche di più, ma tutti quelli degli ascoltatori e ascoltatrici, ognuno con la propria voce, i propri pensieri, il proprio modo di vedere, però Gian Pietro ha aggiunto qualche ingrediente in più. Quante cose, un sacco di cose da dire, da commentare, ho raccolto come sempre moltissime notizie, fatti e cose molto particolari, non troveranno spazio ovviamente fino alle 15. Credo che sia caduto uno degli ascoltatori o ascoltatrici, li recuperiamo, ci sono diverse donne tra l'altro in collegamento al numero verde 800 24 00 24, abbiate ancora un attimo di pazienza che volevo sentire cosa pensava soprattutto dell'ultima telefonata Edoardo Razzini, che è qui con me, psichiatra e psicoterapeuta, che ha scritto "Fatto apposta per me". Ma io credo che l'ascoltatore che ha parlato di questa storia... Scusa se ti interrompo, mi viene in mente, sai che io collego una notizia all'altra, ho visto sulla stampa di oggi il governo tedesco che dice, in base a uno studio che è stato fatto, i bimbi adottati dai gay sono felici, ecco, così aggiungendo al fatto che... Poi, no, ma questo è assolutamente riconosciuto, no? Che non c'è assolutamente... sono felici e non diventeranno gay necessariamente. Che poi non è un male, ognuno diventa... Comunque sia, hanno aperte tutte le possibilità. Sì, come è giusto. Perché... la crescita dipende dall'amore, da tutta una serie di aspetti relazionali, non dall'identità di genere, non completamente, diciamo. No, a me piaceva molto, mi è molto piaciuta la tecnica usata dall'ascoltatore Gian Pietro di palpare i suoi tormentatori, no? Nel senso che in qualche modo è andato a cogliere giustizia proprio il punto. Perché le persone prendono in giro gli omosessuali? Perché hanno una grande paura dell'omosessualità latente che tutti noi abbiamo, no? E qui c'è un discorsone, cioè il sesso forte non è assolutamente forte, diciamocelo una volta per tutte. Noi siamo assolutamente fragili, abbiamo una fragilità noi uomini, abbiamo una fragilità narcisistica, molto narcisistica, un'intolleranza alle frustrazioni micidiali perché ci hanno sempre viziato, patullato, ci hanno fatto credere il delirio di onnipotenza. Certo, e poi la società ci impone di avere un certo ruolo, eccetera. Voi donne siete assolutamente corazzate perché avete avuto, scusami, un po' più sfighe, avete avuto situazioni difficili, eccetera. Quindi cosa succede? E ancora che nel resto del mondo è così, non è che la cosa è superata. Questo lo ricollegherei anche se come punte estreme ai discorsi della violenza, no? Nel senso che tutte queste violenze nascono nel momento in cui un uomo che è abituato a ricevere valorizzazione dall'esterno trova una donna che riesce a dire di no perché ha acquisito una sua autonomia affettiva, no? E quindi, ohimè, il fatto che le donne si siano accresciute nelle loro capacità schiaccia sempre più nell'angolo l'uomo, no? E quindi le possibilità sono quella della passività, che di cui tanto parliamo, per cui sono le donne che devono prendere l'iniziativa e l'uomo passivo che se ne sta nel suo angoletto, oppure nelle peggiori dei casi il fatto che l'uomo passi all'atto. Ecco, questo è sicuramente una cosa molto brutta che temo potrebbe essere una linea di tendenza, ecco. E quindi io dico cioè se ne continua a parlare insomma, persone come me, ma non per darmi delle aree, anzi questo mi intristisce, a volte mi sento un po' circoscritta sola in questa battaglia, ma veramente farsi sentire di più sia donne che uomini, perché io sono una donna ma Edoardo Razzini è un uomo, su questo fenomeno terribile. Non stiamo parlando di talebani, stiamo parlando di Italia, dove ogni 2-3 giorni c'è un omicidio appunto da parte di un uomo nei confronti di una donna. Questa cosa non può essere tollerata, e ricerca dell'anno scorso, l'Unione Europea, le donne muoiono più di violenza maschile che non di cancro e di incidenti stradali. Ma si può accettare? Cioè, è concepibile una cosa del genere, mi chiedo. Numero verde 800 24 00 24. Finalmente Claudia da Roma, ecco, scusa Claudia e tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori che sono in attesa. Claudia. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Io immediatamente sentita questa sentenza della Cassazione ho pensato esattamente all'argomento che ha trattato lei, ovvero al fatto che in Italia ogni 3 giorni muoie una donna. Sì. E devo dire che l'ho trovato come sale su una ferita, tanto più che ieri mattina il vostro ottimo Alessandro Milan ha affrontato questo argomento, ma pochissimo, dalle 8:30, 10 minuti, per poi passare ad altro. E io ho anche mandato un sms dicendo che un argomento così terribile, trattarlo in pochi minuti sembra quasi ridurne la gravità. Forse lo spazio è un atteggiamento così barbaro, così, cioè anche il fatto di dire questi uomini schiacciati nell'angolo, e dare anche dei pretesti su no, ma come si vivono loro abituati all'onnipotenza, ecco. Esatto. Non intendeva Edoardo Razzini che veramente poverini sono lì, tutt'altro. Sì, però io vivono trovo questa la condizione femminile in Italia sia veramente pesante. Guarda, io non sono mai stata una femminista. Ma non è una parolaccia comunque. Come? Non è una parolaccia, no. Mi posso dire che tante donne, ma io però non però sono una femminista. Però lo sto diventando. Cioè, mio malgrado, mi sto rendendo conto che queste notizie, cioè quella trasmissione Amori Criminali, sì, che io non volevo vedere e mi sono trovata invece a vederla. Ed effettivamente passa questa visione di un uomo che ritiene le donne semplicemente degli oggetti da rompere se non si possono poi avere. Guardi, trovo abbastanza terribile il quadro che sta uscendo riguardo alle donne in Italia in quest'ultimo periodo, e mi dispiace molto per le nuove generazioni, per le ragazze giovani, Claudia, oltre che per noi, cioè io ho 50 anni. Però ti sento insomma consapevole, perché diciamo, per fortuna i rapporti donna-uomo, almeno nei paesi occidentali, sono molto migliorati, gli uomini sono diversi, però ancora adesso c'è, non solo nei paesi integralisti e al di fuori dell'Occidente, ci sono cose terribili, e le donne, appunto, basta parlare dell'Afghanistan, dell'Iran, di in Bangladesh o in Pakistan, le donne a cui viene gettato l'acido in faccia se non sono completamente supine, insomma, al potere maschile. Però anche in Italia, nonostante tutto, ci sono discriminazioni, e sul lavoro, anche per l'accesso stesso alle professioni, ma anche in mille altre cose. Poi questo fenomeno di cui parlava anche Edoardo Razzini, no? Di reagire alla frustrazione di vedere le donne sempre un po' più indipendenti, emancipate, con la violenza. Grazie Claudia. C'è Cinzia da Trento. Cinzia, pronto? Sì, pronto. Eri scappata dal telefono, Cinzia. Eccoci qua. Prego. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Finalmente la sento. Grazie, finalmente sento te allora, Cinzia. No, che ci diciamo? Ti sento sempre per radio, perché lavoro al sabato, sì, che sei una bella compagnia. Grazie. Che cosa fai, Cinzia? Faccio la sarta. Ah, la sarta. Sai che è un lavoro ormai che non esiste più, e per avere un orlo e pantaloni diventa un'impresa di ricerca della pepita d'oro. Infatti è per quello che io lavoro al sabato. Prego Cinzia. Quindi, io volevo affrontare l'argomento lì della Patrizia Daddario e del signor Berlusconi. Perché quello che mi dà fastidio, ma veramente fastidio, è che quella signora è un escort, no? Sì. Poi cercheremo di capire cos'è escort, magari con Valeria Della Valle, la linguista, verso la fine della trasmissione, visto sì, che c'è poca chiarezza. Comunque è un escort. Sì. Però è anche una donna. E secondo me, cioè, a parte che il Presidente del Consiglio, secondo me, ha sbagliato a portarla lì, non si è, cioè, l'ha presa veramente come un oggetto, perché non ha detto che non si ricorda il nome. Cioè, io credo che un uomo, dopo che ha passato una notte con una donna, anche se è un escort, almeno il nome. Beh, dice che ne sono passate talmente tante che è difficile ricordarlo. Ed è per questo che io sono infastidita da questo fatto, non dal fatto che lui vada con le donne, per carità, lui può andare con chi vuole, però è proprio quel trattamento che stavate parlando adesso, perché io capisco che gli uomini sono cioè, ne approfittano delle donne, le uccidono e tutto il resto, ma in fin dei conti anche il signor Berlusconi in quella maniera lì sta uccidendo le donne, non fisicamente, ma non so spiegare, non so trovare la parola giusta. Quello che voglio dire è questo, hai capito? Cioè, culturalmente dici, diffonde comunque una mentalità, sì, che è quella un po' maschilista, di cui stavamo parlando prima. Però la Pravda, dice il giornale russo, che perché lo criticate se sa usare alla grande il testosterone? Ma sì, scusa, ma io volevo cioè, quello che mi stupisce è che poi dice anche, guardate che non sono un santo, cioè con quell'area da santarellino che hanno, sai, io mi ricordo negli anni 50 c'erano i farfalloni, no? Come si chiamavano? I vitelloni? I vitelloni, ecco. E a me mi dà quell'impressione lì. Poi al di là di tutto quello che fa, perché per carità nessuno discute sul suo ruolo, se io parlo veramente dell'uomo Silvio Berlusconi, io non andrei con lui neanche a prendere un caffè, perché non saprei quello come andrà a finire dopo. Cinzia, allora intanto ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, visto che il tuo lavoro poi è così particolare, in estinzione, potremmo dire, come i santi in Italia. Grazie, continua se puoi ad ascoltarmi qui a Radio 24 e a Radio in generale. E credo che sia caduto uno degli ascoltatori che vuole parlare di Italia e la cultura, e chiedo veramente scusa, ma non si riesce ad andare abbastanza veloce perché sono tante le cose da dire. C'è tra poco Concetta da Bologna, tu Edoardo Razzini volevi fare qualche commento? Ma volevo un po' riprendere il discorso dell'ascoltatrice, non l'ultima ma la penultima, in qualche modo precisando che assolutamente il mio discorso non era giustificatorio per la categoria maschile, ma in qualche modo io credo che nel momento in cui si nota un fenomeno grave bisogna anche cercare un po' di capirne le origini, e credo che questo si può ricollegare anche al mio libro, nel senso che io, per esempio, se fossi una fanciulla starei attentissima a evitare un uomo incapace di tollerare le frustrazioni, no? Nel senso che nella vita ce ne sono mille, quindi io parlo appunto di persone, di partner che debbono avere l'animo del mezzo fondista, no? Che devono essere capaci di litigare nel modo giusto, recuperando. Cioè, senza sopraffazione, senza arroganza, no? Prepotenza, per il fatto di avere magari due bicipiti un po' più gonfi, diciamo. 800 24 00 24, chiedo ancora scusa a chi è in attesa, c'è Concetta da Bologna. Sì, buongiorno. Buongiorno a te, Concetta. Allora, niente, io mi volevo riallacciare appunto al discorso di prima delle palpatine. Sì. Nel senso che c'è stato un ascoltatore che diceva che lui lo fa così tranquillamente. A me è successo proprio la settimana scorsa, infatti è caduta proprio a fagiolo questa trasmissione, perché è successo. Fagiolo gigantesco, sì. Beh, una cosa molto leggera naturalmente, che non riguarda insomma l'argomento che state trattando in maniera più grave o più greve. Comunque, voglio dire, eravamo in un ristorante, eravamo in quattro, il cameriere è venuto a prendere l'ordinazione, aveva il braccio sinistro vicino a me. Allora, la prima volta ho detto, ma sarà capitato così per sbaglio. Che cosa esattamente dici? La toccatina, la palpatina. Dove? Si parla dove? Beh, in alto, diciamo. Io ero seduta, lui con il braccio mi ha toccato, sì. Ci sono rimasto un po' male, devo dire la verità, però ho detto, ma sono io che mi sbaglio. Poi, tra l'altro, ho 50 anni, non è che sia una ragazzina. Beh, ci sono splendide donne anche a 60 anni, quindi, però non deve essere quello un buon motivo per palpare, mi sembra. Esatto. La seconda volta è arrivato e allora lì invece proprio c'è stata palese. Guardi, mi è venuta una tale rabbia, c'era lì accanto mio marito, poi c'erano altri due amici. Ovviamente mi sono chiesta cosa devo fare, devo metterli a disagio oppure devo stare zitta. Guardi, veramente è stata una cosa molto sgradevole, molto sgradevole. Ma uno sgambetto e farlo cadere col vassoio era possibile? Infatti, guardi, la terza volta, no, allora sulla seconda, appena io mi sono resa conto che lo faceva sul serio, credo di avergli lanciato un'occhiata che se fosse stato possibile fulminarlo avresti incendiato in tenere. Quindi lui se ne è accorto, per cui la terza volta quando è arrivato io ero già pronto con la gomitata. Ero prontissima a dargli una gomitata. Brava, invece per fortuna ha capito il pericolo e ha desistito. Sì, ha capito. Quindi, e non sono le persone di colore che toccano, guardi, tutti indistintamente. Era italianissimo ed è una cosa veramente fastidiosa. Non è vero come dice quel signore che fa anche piacere la palpatina, assolutamente non è così. Ci mancherebbe, insomma. Poi se io dalle persone con cui ho una certa intimità gradisco la palpatina, è chiaro, no? Da chiunque. Grazie Concetta, è stata anche molto simpatica e volitiva e terminata con questo racconto. C'è tra poco Emiliano D'Ancona, numero verde 800 24 00 24, resistete perché arriva il vostro turno. Tu Edoardo Lazzini, a parte che guarda, avevo raccolto tante di quelle notizie qui, per esempio vi dico questa cosa che mi ha particolarmente colpita: in Gran Bretagna aumenta il numero di persone non musulmane che si affidano a tribunali musulmani, perché da un po' di tempo in Gran Bretagna è stato concesso alle persone di cultura musulmana, insomma, di avere i loro tribunali e di giudicare attraverso la Sharia, che è la legge musulmana, e sembra che sempre più britannici si rivolgano a questi tribunali perché dicono sono più veloci, meno faraginosi. Qual è il fatto? Che più delle volte, quando ci sono di mezzo delle donne in queste cause civili, se la vedono nel peggiore dei modi, per esempio in caso di separazione, di affidamento dei figli. E questo, io mi chiedo poi come sia possibile in uno stato sovrano occidentale permettere che ci sia una doppia giustizia, dei doppi tribunali. Allora ne vogliamo fare 5, 6, 7, 8 paralleli. E un po' legato a questo fatto è che in Svezia, uno lo sappiamo, dei più leggendari paesi come li vediamo noi, insomma, più avanzati, più progressisti, così come l'Olanda o la Danimarca, c'è grande emancipazione, no? Fisica, sessuale, le persone, uomini e donne, diciamo, sono un po' più vicini nella loro pari dignità, nel comportarsi, sono più liberi nei costumi, ma senza tanta pruderia come magari c'è in Italia o in altri paesi. E le donne sono abituate a essere in topless da tanto tempo, quindi col seno scoperto, quando vanno al mare, anche in piscina, non è vista come una cosa strana. Bene, siccome aumenta la comunità musulmana, il governo sta pensando di, per non dar fastidio agli islamici, di far coprire il seno. Ora io mi chiedo, ma perché bisogna tornare indietro quando si sono fatti dei progressi, quando si sta bene così? Perché invece non fare in modo che magari negli altri paesi, non dico di esportare la democrazia, ma insomma possano cambiare i costumi, soprattutto a favore delle donne, della libertà, dell'emancipazione femminile? Invece tendiamo a tornare indietro, a far finta di fare quelli che abbracciano le diverse culture, quando poi queste culture spesso hanno degli aspetti, diciamo, discriminatori, intollerabili nei confronti delle donne. Le mascheriamo da altra cultura, quando invece appunto non si può tollerare. ancora insieme per circa 12 minuti, quindi approfittate, e io continuo a chiedere scusa alle tante telefonate magari che arrivano e poi cascano, e insomma c'è Anita che ne sta prendendo moltissime all'800 24 00 24, poi il tempo è quello che è. Tra poco c'è Emiliano D'Ancona, ma il colonnello Giuliacci anche lui sarà mica russando, si sarà mica appisolato nel frattempo che li ha appeso al telefono da un po'. Colonnello Giuliacci? Colonnello? Sì, sento scatti, sì, comunque. Sì. Scusami, saranno colonnello. Che pure temporali in giro non ci sono. No, era per svegliarti nel caso tu ti fossi assopito, perché effettivamente non so se è un quarto d'ora, che scusami, non è maleducazione. Allora, colonnello, questa ondata terribile di caldo di cui si parla in questi giorni, c'è? Beh, ancora c'è, relegata prevalentemente al sud, perché al nord non è stata mai notevole, l'avevamo detto, no? Il caldo sarebbe stato più intenso al centro-sud, al centro un tantino si è smassato il caldo, ancora invece temperature intorno a 38-40 al sud, posso citare insomma, 40 in questo momento a Catania, 41 a Enna, 40 a Gela, 40 a Reggio Calabria, 38 a Lecce, ecco 37 a Cagliari, tanto per dire le temperature del momento. Quindi ancora rovente il sud delle isole, ma domani anche qui il caldo si smorzerà, ma per breve tempo, perché non diciamo per una decina di giorni avremo bel tempo, questo è quasi certo. Già una magnifica quello notizia. Che ecco, l'unico magari indica, si fa per dire, ma per chi sta al mare o in montagna il problema non c'è, l'unico handicap è questo caldo che probabilmente ritornerà da martedì e insisterà fino ai primi di agosto, caldo che sarà più intenso ancora una volta al centro-sud, no? Al nord ce la caviamo un po' meglio in questa circostanza, ma comunque un caldo moderato, cioè non vedremo più da martedì e per 7, 8, 10 giorni i 40 gradi o i 38-40 gradi, ma i 33, 35, 36 al centro-sud probabilmente le rivedremo ancora. Benissimo, allora benissimo, per chi soffre. Bene, vi tengo in graticola. In graticola. Grazie, colonnello. Farei un barbecue? Ho già fatto, perché l'ora dico avrei già mangiato, sì? Sì, certo. Salsiccia certo. Rosticiana. Ovviamente. Vabbè. Grazie, colonnello Giuliacci. Grazie, Roberta. Un salutone a te, gli ascoltatori. Una calda continuazione a te. Intanto chiedo ad Anita se chiama Valeria Della Valle, a cui voglio chiedere appunto questa cosa delle scorte. Intanto vi dico in presa diretta che Valerio Cleri ha vinto a Ostia l'oro nella 25 km di fondo ai mondiali di Roma. Sono arrivate tante medaglie femminili italiane dalle mondiali di Roma in questi giorni, ieri poi la pallanuoto maschile e oggi appunto Valerio Cleri. Ancora gli ascoltatori, c'è Fabio dalla provincia di Latina. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Fabio. Buongiorno a tutti. Brevemente, riallacciandosi alla storia delle Palpatine o sì, meno, sì. Ognuno di noi ha la sua campana di vetro di libertà personale che apre e chiude soltanto secondo i suoi desideri. E beh, mi sembra anche giusto. Quindi qualunque intrusione dovrebbe essere condannata. Quindi questa sentenza secondo me non sta in piedi. Nel momento in cui io apro la campana di vetro volontariamente non si configurerà nessun tipo di reato. Nel momento in cui qualcuno si infila, amichevolmente o meno, e a me non piace, quindi parte una questione... evidentemente la mia libertà personale è violata, quindi certo. Non riesco a capire perché, come è uscita fuori questa sentenza, no? Fabio, beh, non so se ti ricordi quella dei jeans in un caso di violenza sessuale, che diceva no, si vede che lei c'è stata, ma perché i jeans sono troppo stretti e avrà aiutato a levarli. Me la ricordo, insomma. Però a volte non hanno veramente senso, mi sembra quasi che si gioca troppo con la morale, con i principi fondamentali della morale e del rispetto proprio degli individui, maschi, femmine o qualunque essi siano, ma un commento un po' più largo è che probabilmente il segno dei tempi in Italia è un attimino una riconsiderazione generale proprio della morale da parte di tutti, a partire dai semplici cittadini, ma soprattutto da chi ci rappresenta a livello pubblico, sarebbe proprio il caso che venisse fatta. Ecco, grazie senza Fabio. Senza andare molto più a fondo. No, ecco. Molto breve e incisivo comunque. Ti ringrazio moltissimo Fabio, anche perché siamo alle strette. Mentre in attesa Valeria Della Valle, alla quale chiederò appunto questo termine di escort, di chiarirci un po', Edoardo Razzini. Credo che ci sia anche un ascoltatore, forse Emiliano? Pronto? Emiliano, perdonami, riesci proprio in 17 secondi a dire quello che è il tuo pensiero? Sì, molto scusa. Brevemente. Grazie. Penso che la sentenza della Cassazione fondamentalmente potrebbe essere anche sbagliata, vista considerata, bisogna avere rispetto di tutti. Volevo fare una domanda all'ospite in qualità di sociologo. Sì. Ma le donne che ricevono le Palpatine sono più attratte dagli uomini che fanno queste palpatine o dall'uomo riservato che magari non dà confidenza? Emiliano, mi fa questa domanda, mi farebbe da rispondere a me, che non sono psichiatra, però ti ringrazio Emiliano, chiedo a Edoardo se riesce, per sentire poi Valeria da Valle, a dare una risposta e poi ritorniamo. Beh, attualmente credo assolutamente che la questione del rispetto sia fondamentale, sia vissuta da tutte come una cosa imprescindibile. Non so se mi era possibile spostare un po' la questione. Sì. Rapidissimamente. Sì. No, nel senso che tutta questa questione della violenza maschile nei confronti della donna mi sembrava potesse essere vista anche dall'altro vertice, no? Con quella notizia sull'educatrice trentenne di 30 anni che ha abusato di questo ragazzino. Quel ragazzino di 13 anni. Anche se posso dire, non so se gli ascoltatori magari mi daranno addosso, però mi sembra una questione un po' diversa. Assolutamente i due diversa. Avevano un rapporto sessuale, certo, uno dice a 13 anni il ragazzo comunque ha bisogno di uno sviluppo progressivo, non può... però si amavano, sembra che si amassero, che fossero reciprocamente innamorati, e poi di una donna nei confronti di un ragazzo io non riesco a vederla come una violenza sessuale, magari psicologica, di non essere stata responsabile a lasciare che vivesse le sue tappe, eccetera. La vedo un po' diversa da un uomo. Certo, no, però comunque sotto il profilo femminile dimostra come ci sia anche questa grande solitudine, questo grande bisogno probabilmente di situazioni anche facili, probabilmente o forse più tenere, è possibile, tenere. Anche se non è giusto, perché bisogna aspettare che una persona sia maggiorenne, secondo me. Però poi vabbè, c'è l'enorme scacco educativo, perché voglio dire, un bambino, un ragazzino già disagiato, che quindi non ha mai potuto fare il bambino, si è trovato ancora una volta responsabilizzato con la persona che avrebbe dovuto a vivere invece in modo prematuro certe... E lì vecchio Freud diceva che bisogna essere astinenti come educatori, psicanalisti, bisogna avere l'astinenza. Se sei il tutore, senza dubbio. Valeria Della Valle, eccola. Eccomi, 35 secondi disponibili, lei senz'altro ci dirà, Valeria, scusa. Sì, la sto... tanto per cambiare. Lei, scorta, allora... hai sentito, vorrei che tu parlassi di questo, linguista della sapienza di Roma. Ci chiarisci questo termine che continua a girare per queste storie degli scandali sessuali? Escort. La parola è una parola che in realtà gli italiani, credo la maggior parte, non conoscevano. L'abbiamo imparata un po' a nostre spese, anche sgradevolmente, e io naturalmente sono andata a guardare, appena se ne è cominciato a parlare, nei vocabolari, che sono, no, la nostra Bibbia per sapere come, e che tu come scrivi, fanno le tu parole. Stessa, e questa parola nella maggior parte dei vocabolari non c'è, in un grande vocabolario è definita come accompagnatore turistico. E infatti, sia per l'uomo che per donna, no? Dovrebbe funzionare così. Insomma, un po' troppo poco, però c'è un altro vocabolario che ha registrato l'uso estensivo, e cioè chi nel ruolo di accompagnatore però è anche disponibile a prestazioni a un sessuali. Servizio di fine serata, diciamo. Ecco, e allora questa è un po' solo la definizione del significato, ma io vorrei arrivare a un commentino. Sì, perché mi dice Giacomo Spunta che forse un minuto e mezzo ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo, allora, sì. Allora rallento almeno un pochino per dire che dico l'uso di escort, che noi abbiamo trovato in tutti i giornali, in qualche trasmissione, eccetera, eccetera, parola che ne sostituisce un'altra o molte altre. Come lo vogliamo considerare? È una questione che pongo a chi ci ascolta. È un caso di uso della dimensione del politicamente corretto, cioè vogliamo davvero rispettare tutto e tutti fino a questo punto, oppure, e propenderei per questa ipotesi, è un caso di ipocrisia linguistica? Ecco, io vi lascerei con questo quesito. No, non lasciarci con un dubbio così. Così, Valeria, no, te ne vai così. No, nel senso che si tratta ovviamente di una formula eufemistica, cioè il coprire con una parola, poi in questo caso addirittura una parola inglese, quindi che fa molto così, molto esotico, molto così, e quindi vogliamo coprire qualcosa che in realtà suonerebbe molto più rude, no? Se usassimo la parola che in questo momento abbiamo tutti in mente. Con la P, però non si dice. Che concluderei però un po' sorridendo, come sempre, pensando al fatto che questi eufemismi sono sempre esistenti. Quando io ero piccola, cioè molto tempo fa, si parlava di donnine allegre e non ci si riferiva mai a chi erano poi gli uomini, gli ometti. Molto allegri, continuano a essere veramente allegri, fronte. O dal nostro punto di vista direi tristi, no? Perché queste vicende mi sembrano in realtà tutte molto tristi, anche se noi cerchiamo di sorriderne. Ma io ti saluto in allegria, Valeria Della Valle, grazie. In allegria, arrivederci. Edoardo Razzini, abbiamo proprio una battuta. Il termine escort. Mentre sentiamo la base così ci accompagna verso... Io penso che il termine escort personalmente preferirei utilizzarlo per connotare un vecchio modello della Ford. Assolutamente. È lo storico, glorioso modello della Ford. Effettivamente, con questa simpatica battuta di Edoardo Razzini, che ha scritto fatto apposta per me, Roberta Giordano vi saluta. E ricordatevi che il sabato c'è, non ci sono più le mezze stagioni, effettivamente, almeno il sabato.